Sì, è stata una giornata molto lunga, insomma, a Roma. Una giornata che è partita con un corteo molto grande, più di 30.000 persone, che è partito da Piazza Aldomoro, dall'Università della Sapienza, per dirigersi appunto alla volta di Montecitorio. Un corteo che ha saputo dimostrare, come dire, anche una determinazione che non era solamente scontata, anche davanti a una chiusura da parte delle forze dell'ordine, non solo di Montecitorio, ma di tutto quanto il centro storico, con il chiaro obiettivo di non far arrivare le manifestazioni che erano state preannunciate in questa giornata sotto appunto il palazzo dove sta venendo discussa questa riforma. E un corteo che appunto è stato così determinato che è riuscito insomma a tentare di forzare i blocchi da parte delle forze di polizia, blocchi che ricordiamo sono stati fatti con i blindati, appunto con gli automezzi della polizia e non appunto con la Celere, e momento in cui appunto forse l'avrete insomma anche già sentito in diretta, ci sono state delle cariche. Stati un po' di spari di lacrimogeni da parte delle forze di polizia, mentre i manifestanti provavano ad assaltare questi blindati che sbarravano la strada. E persino in questi momenti, nonostante quello che sta uscendo anche su alcuni dei soliti giornali, insomma, in questi casi, tutto il corteo ha saputo rimanere lì in piazza e assumersi la responsabilità di forzare quel blocco per arrivare sotto Montecitorio e decidere insomma, collettivamente che quello era il nostro obiettivo e che eravamo disposti a qualunque costo insomma, ad arrivarci. Proprio per questo, infatti, mentre ci sono state queste cariche, questi scontri con la polizia, tutto il corteo è rimasto per strada, quanti studenti, precari, ricercatori sono rimasti lì a autotutelare il corteo e come dire, a conquistarsi il diritto a procedere. E non è finita così, non è finita così perché non essendo riusciti poi ad arrivare purtroppo a Montecitorio, il corteo ha continuato a muoversi, ha invaso insomma, via Cavour, è andato poi verso Piazza del Popolo per poi occupare con un corteo insomma, non autorizzato tutto quanto il Muro Torto fino a Castro Pretorio. Un corteo molto lungo e soprattutto ancora molto numeroso, nonostante erano già insomma, le 4:30, le 5 del pomeriggio e stamattina si è cominciato alle 10 del mattino. Un corteo che appunto è uscito a Castro Pretorio ha invaso la stazione Termini per bloccarla, per paralizzarla, provando appunto a produrre un altro elemento di, come dire, di discontinuità rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni questa città e anche per segnare insomma, un passaggio ulteriore rispetto alla necessità di bloccare questo DDL, ma soprattutto insomma, un presidio anche per chiedere l'immediata libertà degli studenti che a quanto pare sono stati fermati o arrestati da parte delle forze dell'ordine anche nella giornata di oggi. E proprio in merito di questo stiamo aspettando notizie che speriamo possano arrivare nelle prossime ore che ci confermino. No, insomma, quantomeno i fermi e gli arresti, e soprattutto che ci facciano scoprire quali fratelli o quali sorelle questa volta sono stati imprigionati. E su questo attendiamo notizie, ci risentiamo sicuramente anche più tardi per aggiornare anche la radio, insomma, rispetto a quello che accade. E al momento il presidio a stazione Termini è stato lasciato, il corteo è rientrato dentro la città universitaria. Ritornando appunto ognuno nelle proprie facoltà occupate, dove al momento si stanno svolgendo le assemblee per decidere come continuare la mobilitazione, come cosa fare se stasera questo DDL avrà il voto e come si procede rispetto ai prossimi giorni verso il 14 dicembre e quindi la sfiducia di questo governo.